Mix 24, la storia. Un personaggio timido, schivo, che non ha mai investito nella conservazione della sua memoria. Oggi a Radio 24 vi raccontiamo la storia di Adriano Olivetti, un industriale forse l'unico in Italia che ha indicato una strada possibile al di là del capitalismo e del socialismo. Un ingegnere, un imprenditore, un urbanista, un editore, un parlamentare, un uomo di cultura che ha organizzato la sua azienda intorno a un'idea di responsabilità verso il territorio e verso i lavoratori. Grazie a lui la sua città, Ivrea, una piccola cittadina a pochi chilometri da Torino, è stata a lungo il simbolo della grande industria italiana conosciuta in tutto il mondo. Quella di Adriano Olivetti è davvero una vita straordinaria, la vita di un visionario, come l'hanno definito in tanti, che però ha dimostrato nei fatti che le sue idee erano un progetto concreto, in gran parte realizzato. Canavese, Piemonte. All'inizio del Novecento, tranne che nelle città, in questa zona non esiste praticamente nessuna forma di civiltà e di organizzazione moderna. È qui, nel Canavese, che l'ingegnere Camillo Olivetti, padre di Adriano, cerca manodopera per la sua nuova fabbrica di macchine per scrivere. Parla con le famiglie, intervista personalmente i ragazzi più volenterosi, sceglie quelli che pensa possono avere l'attitudine a certi tipi di lavoro e li assume. La mattina insegna loro a leggere e scrivere per poi farli lavorare nel pomeriggio. Ascoltiamo Enrico Morteo, storico del design. Camillo Olivetti si innamora delle macchine per scrivere perché immagina che il lavoro si va evolvendo, si trasforma, si intellettualizza in qualche modo. È meno operai e più impiegati, una contabilità più complessa. Insomma, quello che serve sono le macchine per scrivere. Lui ci scommette e lui vede un futuro che non c'è. Ma per raggiungere quel futuro, per realizzare quel sogno, Camillo Olivetti deve confrontarsi con le banche, un mondo che detesta, come racconta l'attrice Laura Curino in uno spettacolo del 98. Banche! Sono banche! Invece di lavorare devo peregrinare tutto il giorno per le banche! Le banche non le poteva soffrire. I manipolatori di titoli, così li chiamava. Non gli sembravano esseri degni di rispetto, perché il loro denaro non proveniva dal lavoro, dal produrre le cose, ma dallo spostare altro denaro. Camillo Olivetti a casa ripete spesso: ricordatevi che all'origine di ogni proprietà c'è sempre un furto. È in questa realtà che Adriano Olivetti cresce ed è poco più di un bambino quando ha i primi contatti con il mondo della fabbrica, raccontava nel 1960. Quando avevo 13 anni mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva e non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. E lo guardava con un certo sospetto questo lavoro manuale? Ma è più che, non è un sospetto, è una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito. Ma la formazione del giovane Adriano Olivetti continua. L'indomani della laurea in ingegneria, Adriano Olivetti viene mandato dal padre nell'America della produzione di massa. E l'America industriale a quell'epoca è dominata dalla figura di Henry Ford. Ecco cosa scrive Olivetti. 1925. Lettera dagli Stati Uniti da Adriano Olivetti al padre Camillo. L'impressione generale è che l'officina Ford sia un miracolo di organizzazione, perché tutto marcia senza burocrazia. Tutto è raggiunto con la enorme specializzazione operativa e tutto non perde tempo. Camillo Olivetti fa visitare al figlio Adriano 105 fabbriche in 6 mesi. Solo una fabbrica non gli apre i battenti, la Underwood di Hartford, il colosso delle macchine per scrivere americane. E lui più tardi comprerà proprio l'Underwood, ma lo vedremo. La lungimiranza del padre trova terreno fertile nell'intelligenza del figlio. Olivetti, infatti, acquisisce un metodo. Capisce cioè che l'industria si organizza secondo i criteri della razionalizzazione del calcolo, anche del lavoro umano. In pochi anni, sotto la guida di Adriano, l'Olivetti si trasforma radicalmente e si passa alla produzione in gran serie per il mercato di tutto il mondo. Nell'arco di 10 anni i 400 dipendenti della fabbrica del padre diventano 2300. Adriano Olivetti terrà sempre fede al monito del padre. Adriano, fai quello che vuoi, ma non licenziare nessuno.

Così Laura Olivetti, oggi presidente della Fondazione Olivetti, ricorda quel giorno. A Ivrea era carnevale e a Ivrea uso che il sabato sera venga presentata quella che viene chiamata la mugnaia, che poi diciamo l'interprete principale del carnevale. E io quell'anno facevo una cosa ambitissima, che era fare la paggetta della mugnaia. E mia madre era molto nervosa, mi disse che sì, insomma, aveva altro per la testa. Ho detto: mamma, ma è possibile una cosa più importante del carnevale? E lei mi disse sì, ma non mi disse altro. Siamo andati a casa di questa sorella di mio padre e lei mi ha detto che lui era stato molto male, che la mamma era andata da lui. E io ho detto: ma è morto? E lei mi ha detto: no, non è morto, però vedevo che piangevano tutti. Una città che piangeva suo figlio. La città amava Adriano. Quest'uomo difficile e scorbutico era capace di farsi amare. Fu una perdita molto dura che dovetti elaborare in un certo periodo di tempo, perché mi aveva cambiato la vita. Alla fine degli anni 50, l'Olivetti e le sue consociate contano 36.000 dipendenti. È una delle aziende più importanti al mondo. Di fronte alla complessità delle sfide lanciate da Adriano Olivetti, dopo la sua morte la famiglia fa entrare nel consiglio di amministrazione un gruppo di intervento formato tra gli altri da Fiat, Pirelli, Mediobanca, IMI, dalla Banca Centrale. Vittorio Valletta, all'epoca presidente della Fiat, afferma testualmente che per sopravvivere la Olivetti ha un solo neo da estirpare, la divisione elettronica, che infatti viene ceduta all'americana General Electric. Eppure, secondo molti, con la dismissione della divisione elettronica dell'Olivetti, il nostro paese ha perso un'opportunità strategica fondamentale per competere sul livello internazionale. Ma questa, naturalmente, è un'altra storia. Nuova Volkswagen Golf Variant, anche con Business Pack. Vi presenta Strade in diretta. Lungo la 21 Torino-Piacenza-Brescia sono 3 km di coda tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino per un mezzo pesante in avaria. Alle porte di Milano sulla A4 si resta in coda invece per un incidente tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso il capoluogo lombardo, con ripercussioni in entrata a Milano per chi viaggia sulla 8 Milano-Varese. Sull'autostrada del Sole in direzione Bologna, 3 km di coda per materiali dispersi tra Calenzano e Barberino, mentre verso Firenze, tra Roncobilaccio e Barberino, ci sono code per lavori. Ancora in Toscana, sulla 11 Firenze Mare, 1 km di coda sempre per lavori tra Montecatini e Altopascio in direzione Pisa. Disagi per i cantieri anche in Emilia, sulla 14 Adriatica, le code verso Modena, tra Bologna, San Lazzaro e Casalecchio. Sulla 13, code verso Bologna, tra Ferrara Sud Altedo e ancora tra Bologna e Interporto e l'innesto per la 14. Altri lavori da segnalare sulla tangenziale nord di Torino, dove il traffico scorre a rilento tra Corso Regina Margherita e lo svincolo per la statale 24 in direzione della tangenziale sud. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra un'ora. Che effetto fanno le grandi notizie d'attualità? Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, Roberta Giordano vi guida alla scoperta di news e commenti sull'attualità politica, economica e sociale. Sono Roberta Giordano e vi aspetto tutte le sere per condividere notizie, interviste, approfondimenti e per ascoltare insieme le voci degli inviati, i punti di vista degli ospiti e i suoni dell'attualità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. E l'effetto news continua anche di giorno, con Effetto Giorno, condotto da Simone Spezia, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Radio 24. Mix 24, la storia. Ingegner De Benedetti, che ricordo ha personalmente di Adriano Olivetti? Io non l'ho mai conosciuto, Adriano Olivetti. Quando sono entrato in Olivetti, nell'aprile del 78, Ho però respirato in quell'azienda un'aria speciale. Un'aria assolutamente speciale che mi si confaceva perché avevamo una cosa in comune, e cioè eravamo, come posso dire, dei fuori coro. Ah, ecco, cantavate fuori dal coro, ecco, esattamente. Ecco, nel nostro racconto che è appena andato in onda, noi abbiamo detto come il mancato sviluppo della divisione elettronica in qualche modo ha segnato anche la fine delle prospettive per l'Olivetti, è vero? Beh, certamente le ha ritardate, perché abbiamo dovuto cominciare da zero quando l'Olivetti aveva presentato il primo calcolatore elettronico al mondo, prima dell'IBM, con l'ELEA dell'IGEA-CU, quindi voglio dire... Ecco, ma... Quindi certamente è stato un danno enorme. Enorme. Ecco, ma chi era questo ingegner Chu tanto famoso che in qualche modo era lo sponsor, insomma il capo di questa divisione? Era il capo del laboratorio di Pisa e della divisione elettronica, dedita principalmente a quell'epoca al grande calcolatore ELEA. Era il padre dell'ELEA, se vogliamo. E quindi l'ha inventato prima dell'IBM? Assolutamente sì. È stato il primo grande calcolatore al mondo. Ma guardi, Gesù, io non l'ho conosciuto, certo. Ovviamente ne ho sentito parlare in Olivetti, quello che mi si diceva, ma così diciamo a livello di chiacchiere, sì. Poi era che non... lei sa che è morto in un incidente da Milano-Torino. Esatto, ecco, ci sono molte chiacchiere su questo incidente. In Olivetti c'era la convinzione che fosse stato ucciso. Ucciso? Ucciso da chi? Da chi si diceva non si sa, insomma. Ma insomma, diciamo... Avversari? Da forze risalenti ai servizi americani. Ah, ecco. Ma chi è che ha voluto appunto la cessione della divisione elettronica agli americani, per l'appunto? Ma l'hanno voluta due cose, devo dire. Da un lato l'oggettiva incapacità finanziaria dell'Olivetti a sostenere una cosa di quel genere... Che richiedeva molti investimenti. Beh, si può immaginare, dopo aver fatto il prototipo bisognava pensare di costruirlo in serie, ma quello era almeno, poi di venderlo e assisterlo in giro per il mondo, quindi scriverci sopra del software, un'impresa pazzesca, gigantesca, che mai l'Olivetti avrebbe avuto la forza di fare da solo. Quindi questo è stato un elemento. Secondo me elemento sono stati certamente gli americani. Fu Valletta che chiese a Kutcher di condizionare l'aiuto di cui l'Olivetti aveva bisogno dopo la litigio. Dopo il prototipo, sì. No, dopo la morte di Adriano e dopo il litigio tra i membri della famiglia, sì. Che si erano tutti... Sì, infatti li abbiamo raccontati nel filmato, sì. E quindi dopo di questo chiese di, certamente glielo chiesero gli americani, non c'è dubbio alcuno, di vendere alla General Electric. Quindi in fondo si può dire che Cuccia e Valletta erano terminali di interessi americani in Italia? Beh, per quanto riguarda l'Olivetti sicuramente, Valletta anche non per quanto riguarda l'Olivetti. Ah, per tutto, ecco, perché storicamente... Per il sindacato, per tutto. Certo, perché anche sul piano sindacale l'Olivetti era molto avanti, ecco. Sì, quello però non penso che animasse Valletta, credo che fosse proprio un do des. Cioè la Valletta era per gli americani la persona su cui si basavano per la loro rappresentanza, chiamiamolo così. Ecco, ma si può dire che storicamente, in qualche modo avendo perso la guerra l'Italia, i settori industriali in cui l'Italia poteva fare concorrenza sui mercati internazionali erano solo quelli a basso contenuto di tecnologia? Ma diciamo, senta, lì eravamo agli albori dell'informatica, parlando. Gli albori dell'informatica, c'era un genio e un gruppo di ingegneri di altissimo livello che lavoravano con Chu, che indubbiamente davano fastidio in qualche modo, insomma, sul piano assolutamente sì, perché l'IBM uscì qualche mese dopo, non è che copiò l'idea dell'Olivetti, ecco. No, quindi, però l'Olivetti voleva l'IBM voleva un monopolio. E questo era una dava cosa un po' che fastidio. Andava contro il monopolio. Alla fine però è toccato a lei liquidare l'Olivetti, era impossibile salvarla? No, ma io guarda, Chiara Olivetti è stata pienamente salvata, cioè bisogna solo mettersi nel contesto storico. Cioè io sono arrivato che si facevano le macchine meccaniche, le macchine da scrivere meccaniche. Sì. In quei 18 anni è scomparsa la meccanica, sono scomparse le macchine da scrivere, sono scomparse le calcolatrici, che sono quelle sui quali meccaniche, sulle quali l'Olivetti si aveva fatto la sua fortuna. Fatto la sua fortuna con Cappellaro, che era un genio della meccanica, e che aveva consentito di vendere dei prodotti con l'80% di margine, accidenti, faceva l'80% di gross margine. Neanche il mercato della droga. No, era più bella soprattutto, era un prodotto straordinario. Vabbè, comunque, io ho portato l'Olivetti a essere la prima azienda europea nei personal computer, subito dopo l'IBM, e un anno abbiamo venduto più PC noi che l'IBM. E cosa è capitato allora? No, è capitato una cosa molto semplice, che i PC sono diventati un commodity, tanto che poi alcuni anni dopo che abbiamo smesso noi, ha smesso l'IBM, oggi rifà la Lenovo, perché la divisione IBM PC è stata venduta ai cinesi dalla Lenovo. E non c'erano più prodotti. Io però devo dirle una cosa, che avendo capito questo, con qualche anno di anticipo, ho inventato la Omnitel, cioè il sì, primo telefono, sì. Che però certo, è stata l'unica azienda di computer al mondo che è entrata nella telefonia, cioè non era una cosa ovvia, no, era una cosa totale che poi è diventata e quando la Omnitel, che oggi è Vodafone, sì, è stata poi non da me ma successivamente da Colarino venduta alla Mannesmann, che poi la vendette a sua volta, che poi fu comprata a sua volta dalla Vodafone. Vorrei solo ricordare che l'Olivetti era l'azienda più liquida in Italia, tanto che si permise di fare quella che io da fuori contestai per iscritto, e cioè l'OPA sulla Telecom, che quella sì fece la fine della Telecom. E quindi diciamo strategia industriale successiva poca. Perché zero. Colaninno arrivò lì, non aveva come Telecom e all'Italia, non lo so, insomma, per fare dei paralleli. Beh, insomma, in qualche modo si utilizzò la cassa dell'Olivetti per iniziare la distruzione della Telecom. Grazie. E poi fu proseguita con grande intensità e successo. È successo, mi pare, nel distruggerlo. Uno si ritrova, un liberista come me in economia, si trova a dire viva le partecipazioni statali. Ecco. Non poco. Grazie ingegnere, grazie mille. A lei. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini. We'll be right back.